Ringrazio anche io per l'invito e anticipo che questo breve intervento sarà inframmezzato da alcune letture tratte dai diari e dalle memorie, dalle testimonianze che abbiamo raccolto in un lavoro di documentazione iniziato con Marco di Bolzano. Abbiamo dato, diciamo, il via ad una collana dei quaderni della memoria in cui abbiamo cominciato appunto a raccogliere testimonianze e memorie, diciamo, della guerra di liberazione, dell'internamento, della prigionia, per innanzitutto per raccogliere la testimonianza e la voce di persone che di quelli così definiti gli ultimi testimoni, prima che ci lasciano definitivamente, anche per l'importanza che ha il deposito della loro testimonianza, un po' anche per le ragioni di cui prima Valeria Trevisan parlava. E l'intervento, la riflessione che proviamo a fare insieme è relativa non solo all'importanza, ma anche allo statuto della memoria, cioè che cos'è la memoria e che cos'è la storia. Le dobbiamo distinguere, sono la stessa cosa. Può sembrare una questione di cavilli, in realtà non è così, è molto importante e lo vediamo sfogliando semplicemente le pagine dei nostri giornali. Quante volte da noi, in una zona dove convivono tante memorie, anche perché, diciamo, viviamo fortunatamente in un territorio molto ricco di culture e di storie, abbiamo anche tante memorie. Noi, si parla spesso anche sui giornali di memoria condivisa, di storia condivisa. Che cosa significa? Che cosa vuol dire custodire una memoria? Che cos'è una memoria? Che cos'è una storia? Come la distingo? Io partirei con il dire che quando noi parliamo ad esempio di memoria condivisa, cioè, cerchiamo di dire una cosa positiva, no? Vorremmo che la memoria fosse appunto condivisa, cioè che tutti ci potessimo riconoscere in una memoria, come processo di superamento delle differenze, come messa in comune dei nostri ricordi e quindi dei nostri passati. Ma non è sempre positivo, non può essere sempre visto in positivo, perché molte volte la cosiddetta memoria condivisa, alla ricerca di una possibile unione, può diventare una forzatura, può diventare un scavalcamento, una cancellazione di altre memorie che non stanno dentro questa memoria condivisa. Quindi quando parliamo di memoria condivisa dovremmo fare molta attenzione, anche perché, come giustamente secondo me sostiene Sergio Luzzatto, dice: la memoria condivisa corre il rischio di essere la comunione della dimenticanza. Ovvero, siamo tutti d'accordo sul fatto che dobbiamo dimenticare qualcosa per avere una memoria condivisa. E questo è un passaggio molto importante, notate bene, perché la memoria fa parte, insieme alla storia, di quegli alimenti di cui la nostra società ha bisogno per stare insieme. Quando parliamo di spirito civico e di educazione civica, di cittadinanza, ci riferiamo a qualcosa di comune, cioè io condivido con altri qualcosa che è lo stare insieme secondo delle regole, non solo secondo delle regole, ma anche secondo una cultura, secondo una storia, secondo qualcosa che condividiamo, perché siamo una società di uguali. Quindi quando parliamo di memoria, insomma, dobbiamo un po' fare attenzione, non sempre la memoria può essere condivisa. E soprattutto quando parliamo di memoria, sia che ci riferiamo ad una memoria un po' più grande che non sia quella dell'individuo, oppure la memoria individuale, parliamo di una questione di soggettività. La memoria è soggettiva. Io la posso confrontare con altre memorie, ma metterla insieme non è facile. Lo diceva anche giustamente Valeria prima: quando uno deposita la sua memoria, sceglie dove depositarla. Cioè, non tutti i luoghi sono adatti per depositare la propria memoria, e chi la deposita oggi fa molta attenzione di scegliere dove la deposita. E noi non possiamo nemmeno far finta di non ragionare sul fatto che la chiusura di una lunga epoca storica, che ha significato anche la sconfitta delle ideologie, ha lasciato un po' tutti orfani. E le memorie fanno fatica a trovare dei soggetti collettivi o delle ideologie o una prospettiva anche ideale di riconoscimento, dove si fa fatica a trovare il bacino comune in cui depositare la propria storia, la propria testimonianza e la propria memoria. Quindi forse non tanto di memoria condivisa dovremmo parlare, ma forse più di memoria collettiva, così come ne parla Marc Bloch, lo storico, dove in realtà per memoria collettiva intende il fatto di avere un passato in comune, quindi è molto più storia che non memoria. E per quanto riguarda altre citazioni illustri, volevo leggere un passaggio, un estratto da un'opera di Claudio Pavone, che è uno storico, che dice: quanto alla memoria comune o condivisa, è un concetto privo di senso. Non c'è niente di più soggettivo della memoria. Un ex partigiano e un reduce della Repubblica Sociale Italiana non potranno mai avere la stessa visione del passato. Erano italiani entrambi, ma volevano due Italie diverse, inconciliabili. Mettere una pietra sopra le ragioni del conflitto non è un progresso né civile né storiografico. Tra l'altro, così si finisce per banalizzare il fascismo, che invece fu un fenomeno molto serio. Diciamo che è un passaggio, una citazione che fa riflettere, e forse possiamo anche dire che tra memoria e storia è importante riuscire a capire anche quali sono le differenze, perché, come abbiamo anticipato, hanno statuti diversi. Il lavoro dello storico è ad esempio il lavoro di chi si mette in confronto, apre un confronto aperto con il passato. Così come aperte devono rimanere le conclusioni, perché può sempre succedere che ci sia un documento, un fatto, un evento, una riflessione, una tesi che rimette in discussione le conclusioni a cui si è arrivati. Chi custodisce e chi lavora sulle memorie ha a che fare con un patrimonio che tendenzialmente si cura e si difende, non può essere intaccato. Sono due statuti diversi. Un sociologo milanese, altra piccola citazione, sostiene che memoria e storia sono due modi distinti di porsi rispetto al tempo trascorso. Dice: la memoria tende a unire il presente e il passato, o meglio, a rendere presente il passato. La storia, pur partendo dalle domande del presente, ne ratifica e ne persegue la irreparabile separazione. Si potrebbe dire che, in un certo senso, la memoria rifiuta la morte e la storia la accetta. È sicuramente certo e comprensibile che, così come non si tratta di mettere a confronto e di distanziare la storia e la memoria in assoluto, così come non si tratta di identificarle in assoluto, perché c'è e ci deve essere un'importante interazione fra la memoria e la storia. E l'esempio della dialistica, della memoria dialistica della storia orale, ad esempio, è quell'elemento importante che qualifica sia la storia, la ricerca storica, sia anche la memoria e la collezione o la raccolta delle memorie. Quindi è importante da una parte distinguere, fare una netta distinzione, perché, come abbiamo detto, gli statuti sono diversi, ma dall'altra parte capire anche che esiste una feconda relazione e interrelazione tra la storia e la memoria. Io vorrei chiedere ora se fosse possibile leggere il diario di Berto Perotti. Questo è l'estratto di un diario di internamento. Berto Perotti fu internato nel lager di Bolzano, era un esponente di spicco del Comitato di Liberazione, del Movimento di Liberazione della Veronese, e è stato internato e torturato, passato tutte le tragedie che può passare un internato in un campo di concentramento, e ci ha lasciato, perché l'ha tenuto, è riuscito a tenere, un diario del suo internamento. e che noi abbiamo raccolto nel primo quaderno della memoria dell'anno. Dagli anni del trattamento di Alberto Perone, 25 febbraio 1945. Sì, è avvenuto quello che ho detto di lui. Questa mattina c'era il nostro corpo, dopo il caffè, con tutta la notte. Abbiamo dovuto consegnare il caffè come i capelli e dopo una lunga attesa nel campo siamo stati portati alla stazione dei giacchi dei valori di un re. Siamo qui, chiusi nell'assedio solitario della donna America come chiusa, senza un raggio di luce, senza un ospedale di aria, di 102 prigionieri. Orco di noi sono diventati lì contro la loro. Non sentiamo poca solidarietà per la ragazza, sono quelli del centro. C'è anche il scappato, c'è qualcuno che gli chiede un tratto, che faccia il fatto che sia capace di muovere la mente. Silenzio! In fondo non c'è autorizzato dalle solità. Aspettiamo che non essere in movimento, poi si vedrà. Il problema dello spazio, dove nei piedi qui, io divento qua. Resta un'imprecazione. Dobbiamo pensare al posto per andare di nuovo. In fondo dell'acqua, no, perché sta un po' anche la porta. Parecchi hanno già preso posto, si sono seduti. Altri sono piedi e lottano per trovarsi al posto. Di fuori si parla in tedesco. Rombo di motore, risate dei soldati. Parte un motocicletta dell'essere il comandante del campo. Perché il treno non si mette in movimento per Dio? Perché non partiamo? Ci manca l'aria, ci manca lo spazio. Sembra gli anni dello spazio che mi scavano la vita che passa. Il cielo è ancora in lui, nel doppio buio della sua cecità e della mente, cercando un posto, crudeltà dell'uomo miserito e privato della vista. Nessuno si muove, la sua voce si è curata. Un po' di umanità, soltanto un po' di coso per sedervi. Bisogna imporsi con la violenza, quindi tutti si spostano e ne escono con il posto per noi. Orrore dell'attesa e dell'umanità. La tarda sempre si fa consentire. Daniele, non facciamo nulla. La tarda si fa minacciosa. Bisogna spartire quello che c'è. Occhi pieni di odio fissano le facce di coloro che facevano lo scorso momento di mare. È svenuto un uomo, fate l'altro, portiamolo davanti allo spiraglio della porta. Non c'è posto per farlo sbagliare. Qualcuno mi freccia. È quello della scarpa, scarpioso sì, è proprio lui che è svenuto. Si è appoggiato a i figli di un padre. I vicini cominciano con passione, ripugnanza e curiosità. Ieri mattina si era presentato un altro suo professore. E tutti avevano visto l'aspetto acido della sua mente e dei suoi mani. Bussate! Chiamate, dite che c'è uno seduto! Chi è che sta in tedesco? Silenzio, state a sentire! Stanno parlando un po' in tedesco, che stanno già dicono. Ma che non dicono nulla, parlano del loro servizio. Il caldo mi tremano la mente. Quando uno sente il suo seduto, si confrontano in fondo dove sono gli apparati. Perché non si parla? Perché ci lasciano qui? Si odono la palazzo e massi della sfera, come io ci piace e disse. Finché qualcosa avviene, dei valori che hanno aperto, voci di prigionieri, li fanno uscire, ma io non uscirò. E nel crepuscolo della sera li hanno caricati su un carro e riportati nel campo. Linea in rotta, impossibile partire. 30 marzo 1945. Vengono 8 uomini nuovi dalle cene. Saluti rigorosi, quei fenomeni sudici e coperti sotto il braccio. Si fermano nella sala di coniugi che si parli nella corsia. Venite dalle cene? Sì, dalle cene. E ci mandano sempre tutti con la stessa espressione. C'è anche un francese, per politica, partigiani? No, salutati. Sono incerti, domani. Li guardiamo visamente come se venissero da missione. Picchiano, guardiamo. Oh, se picchiano, rispondono loro, piccolo, fragile, esausto. come fratello Simeone smaritato. Anche lui non è chiaro che è meno, a lui subito per presso quasi differente. Lo sappiamo bene, gli ucraini davvero, gli ucraini non erano di Dio, sono delle belle, ma hai visto come i segni soggiunto un altro, stringendosi in lui più buono sotto il braccio. Guarda in alto, osserva i pavimenti sotto i castelli, e fa se facciamo sotto di lui. Poi mi guarda lontano fino negli occhi e dice: mondo è un inferno dentro, un vero inferno, come morto nel problema, non finito. Resta molto ripetere. Un altro soggiunge: è ancora vivo, ma bisogna vederlo. Sì, sì, papà, bisogna vederlo, e l'hanno ridotto a mangiare perché non crede a più. Abbiamo sentito, dice uno di noi, le urla e la mente. Sempre sentiamo, anche di notte, i gridi di quelli che picchiano. La notte scorsa mi aveva aiuto una voce, doveva essere una donna. Non era una donna? Sì, non lo dico, dunque ce ne credo. Deve essere stata una donna. Gli otto si muovono impacciati, mentre gli altri non capendo dove si stasse. Sentite, dice il consigliere portando sul manto della corretta. Rotoli, attenzione, otto uomini sono venuti, vengono dalla città, dovete farlo proposto, cercate di spingere sui benedici, sono vostri compagni delle città. Uno di essi sorride commosso. Grazie, dice il consigliere comunque, un suo compagno parla con un parente in francese con un bel partigiano. Avete anche un francese? Sei di francese tu? Sì, dice lui, sono francese. Mi hanno preso con loro, erano scappato dalla donna. Sono andato sul mondo, proprio questo mio. Poi ci hanno preso, tutti insieme per la stessa cosa. Io si disperdono per il loro. Alcuni si sollevano a parlare ancora stupiti, ancora indecisi, con altri compagni. Un uomo mi hanno mostrato, forse francese, dall'altro corpo, al di là della rete. Francese, dopo venuto, si arrampica sul castello e si va a lì per parlare con l'altro. Il corpo assorbe in altro di un altro uomo, i loro gesti, le loro paure. Assorbe le loro fisionomie, che amano e disperate. Forse assorbirà anche i loro ricordi, le triste immagini di morte e di dolore, insieme con le innumerevoli altre immagini che si agitano e si confondono in questo grande crogiolo di sofferenza e di passione. Parlando di memorie divise o condivise, o meglio, sarebbe più opportuno parlare di memoria collettiva, forse c'è un esempio emblematico, anzi due esempi emblematici a noi molto vicini, e sono da una parte quello che è stato evocato da questa lettura, il lager, quello che rimane del lager, e il monumento alla vittoria. Sono due esempi completamente diversi l'uno dall'altro, però diciamo che esemplificano abbastanza bene quello che potrebbe essere una memoria collettiva intesa come riconoscimento di aver avuto e di condividere un passato comune, e quello che è una memoria divisa, di non condividere questo passato. Il muro, oggi noi fortunatamente abbiamo un luogo della memoria importante, il resto del muro dell'Aquila, che ogni anno, da qualche tempo, è luogo, soprattutto nelle ricorrenze ufficiali, di ricordo ufficiale e di cerimonia per appunto ricordare ciò che è stato quel luogo. E questa è una ufficialità che rappresenta oggi la città di Bolzano, la provincia intera. Ma se ci pensiamo bene, non è così naturale che sia così. Perché fino a non molto tempo fa quel muro, quel resto del muro, era un muro anonimo in mezzo ad un quartiere molto popolato che era diventato invisibile. Non si sapeva, o pochi sapevano che cosa fosse quel muro. Cioè era diventato una presenza non storica, non importante, non definita. E sarebbe potuta rimanere tale se quel patto dell'oblio che fu sottoscritto nel dopoguerra per poter andare avanti, per superare i problemi, per riuscire a fare un passo in avanti rispetto ad un passato difficile, le opzioni, il fascismo, il nazismo, sarebbe rimasto tale se a un certo punto con il tempo non si fossero riusciti a riconoscere in quel luogo un luogo comune, cioè farlo diventare una memoria collettiva. Viceversa, abbiamo avuto nel Monumento alla Vittoria il luogo simbolo della memoria di Luisa, dove si scatenavano tutte le passioni nazionali, dove si era in qualche misura individuato in quel luogo ciò che divideva, spaccava le due comunità, le due culture, le due storie. Oggi fortunatamente in quel luogo, il prossimo anno, probabilmente sarà aperto un museo che ne racconta la storia, ma fino a ieri era un luogo di divisione, era un luogo della memoria divisa sostanzialmente. E dal dopoguerra è stato così. Cioè se solo noi volessimo raccogliere su questa panchina i fiumi di carta delle contese sul Monumento alla Vittoria, la riempiremmo, si diventerebbe un muro vero e proprio. Ma la memoria non è solo luogo, è anche narrazione. Quando mi capita di parlare di memoria, cito spesso, e lo faccio anche questa volta, un passaggio della prefazione di un libro di Calvino, del Sentiero dei Nidi di Ragno, dove Italo Calvino dice, parla dell'immediato dopoguerra: nei treni che riprendevano a funzionare, gremiti di persone, pacchi di farina e bidoni d'olio, ogni passeggero raccontava agli sconosciuti le vicissitudini che gli erano occorse. E così ogni avventore ai tavoli delle mense del popolo, ogni donna nelle code dei negozi, il grigiore delle vite quotidiane sembrava cosa d'altra epoca, ci muovevamo in un multicolore universo di storia. Cioè quel bisogno di scambiare le proprie esperienze, le proprie testimonianze all'indomani di una guerra, qui in Alto Adige noi non l'abbiamo conosciuto. È stato un risvegliarsi e un darsi come missione l'oblio, cioè dimenticare, possibilmente dimenticare, per riuscire a costruire il futuro. Perché ancora fresche, troppo fresche, erano le cesure e le profonde ferite che la storia aveva lasciato. E l'oblio funziona come rappresenta, secondo me, bene un passaggio di un articolo di Adriano Sofri a proposito dei monumenti dell'orrore, della risiera di San Sabba e delle foibe del Carso. Dice che furono a lungo luoghi invisibili, come le cose che non si vogliono vedere, per un desiderio di convalescenza dall'odio e dalla paura e per una rimozione faziosa. Noi non dobbiamo dimenticare che l'oblio, cioè il dimenticare, è una parte costitutiva anche per una società. Renan la faceva addirittura l'elemento fondativo delle nazioni, forse esagerando un po', anche quando diceva che la ricostruzione storica è un pericolo per la nazionalità. Però dobbiamo tenere presente che l'oblio fa parte di questo. E quando la memoria si sviluppa e abbiamo quel processo che è stato definito con, secondo me, una bellissima definizione, la deriva della memoria, cioè può succedere che la memoria di oggi non sia quella di domani, ma che una nuova memoria si affermi. Perché il bisogno della società è diverso, perché noi chiediamo al passato cose diverse, ci riconosciamo nel passato a partire dalle esigenze del presente. E da questo punto verrebbe da dire che è importante che il presente faccia le domande giuste al passato per avere una risposta feconda per quello che riguarda il suo futuro. Mi avvio verso la conclusione. Vorrei, a proposito di oblio, ricordare che, soprattutto in questi ultimi anni, c'è stata una forte fioritura della raccolta di memorie, sia nel mondo di lingua italiana che nel mondo di lingua tedesca, quasi a dimostrazione della necessità di avere, diciamo, una ricchezza, quella ricchezza di memoria e di testimonianza del passato, individuabile anche in alcuni personaggi, che poi diventano un po' dei capofila della memoria, diventano un po' dei simboli, se vogliamo. Ecco, tra queste memorie noi ne abbiamo riscoperta una che era proprio finita nell'oblio, perché era una memoria eccentrica rispetto alla nostra storia, la memoria di un partigiano, Ludi, di lingua tedesca, che è finito, per sua strana sorte, a diventare vicecomandante di una formazione partigiana comunista, la Brigata Calvi. Ci ha lasciato uno splendido diario, scritto in italiano, dedicato a tutte le persone che aveva conosciuto e a tutte le persone che erano ormai scomparse, testimoniando così la sua esperienza e facendoci anche capire quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto ad una scelta di questo tipo. Lui, che aveva scelto di optare volontariamente, anzi era andato in Germania volontariamente, si era arruolato volontariamente nell'esercito del Reich, era stato in Polonia, è spedito in Polonia, poi è tornato, ha disertato dall'esercito germanico, è tornato in Italia, si è autodenunciato, è stato arruolato nell'esercito italiano, poi è scappato l'8 settembre e è finito nei partigiani. È una storia incredibilmente ricca e particolare, di un uomo che non ha fatto le sue scelte per ideologia, ma semplicemente, oggi potremmo dire, per buon senso comune e per grande convinzione di alcuni valori portanti, che sono la pace, l'uguaglianza tra gli uomini, bandire ogni violenza. Ecco, lo ha portato a fare questo tipo di scelta. Io pregherei di leggere questa parte del suo diario. Da il compagno Paolo a Olio Vittorio Bambiano e Ludovica Arracci. Il tragico ottobre 1944. Si può ben affermare che nell'autunno del 1944 fu abbandonati da tutti e lasciati in balia delle forze di occupazione che ormai emigrate dal sud prendevano sul nord per rapportare loro un bellissimo baluardo di resistenza. I collegamenti della Calvi sono volte a casa, furono veramente molto presenti. Si sentono gli sporadici agiornici e la presenza del capitano Valla, paragonato il primo posto in carica e poi giunto anche lui per trattenersi nel tempo alquanto limitato tra le date cose del mese di settembre del Corriere. Fu nel centro che dove solamente un passaggio, quando ormai aveva deciso di trasferirsi nell'altro notevole, contattando la buona brigata Corriere, con la quale la brigata Carmi non ebbe rapporti amichevoli, ma solamente di specie. Emissari andati paracadutati in calore, non ci furono. Fatto sta, quando stavamo dando il nostro massimo contributo col nostro povero armamento nel corso del settembre, pensando che gli italiani stessero per arrivare, questi, al contrario, si raccontavano progressivamente sull'avvenire, non prendendo assolutamente in nessuna considerazione i nostri sforzi e di tanti nostri compagni caduti. Sicché l'operazione Patro e l'operazione del Mosco, egregiamente organizzata sotto il diretto comando di Kessler, poté svilupparsi con successo in tutte le direzioni ed avere pace e gioia dei partigiani, legandoci ai legali degli altri. Oltre ad essere ripetuti a recuperare forze da tutte le parti, ossia il Patro, dovremmo ora tornare anche in un momento inferno ed avere voluto di loro una buona parte del lavoro. carta a non dare. Avendo pochi soldi a disposizione e dovendo riuscire a campare esclusivamente con questa testa, che segnava 150 grammi di pane al giorno e mezzo chilo di zucchero e 150 grammi di burro al mese, Pink riuscì a procurare in due di questi campi, facendosi malvolere verso l'ufficio comunale di sera, per aver dovuto usare parole quanto convincenti per ottenere. Al momento della nostra cattura, Selva, venuta il medico da vedere, e cui scriverò più avanti, tenne disgraziatamente le due carte, naturalmente non lo vorrò che continuo, nel porto. La sua prima della vita prodotto si accorse subito del regalo e riportò il fatto al commissario tenente Hart che gli stava presso. Seduta stante, ebbe subito una violenta rassicurazione con pugni in faccia e colpi di sedia sulla testa, da una dozzina di buchi e alcuni, nella loro divisa grigiolente chiara, tipica del polizzato di Venta, specie di generalità e dipendenza della famigerata polizia centrale. Un'altra cosa che è rimasta veramente nel ricordo, le enorme paure di terrore, talora veramente infondato, che poi padre è l'uomo. Tanto che allora mi promisi che in tutta la mia vita futura non avrei avuto mai avere paura di nulla e da nessuno, ma vivere un buon vivo, una massima che mi fu utile e che mi accompagnò sempre comunque dove dimorare con essi, sia negli anni passati, nei deserti sahariani o lungo le valli del mare. Ormai avevo già imparato a distinguere gli uomini in due categorie, quelli che facevano paura e quelli che avevano paura. Ho pensato semplicemente di essere interrogato per quelli che facevano paura, non avrei mai dovuto sopportare il paura. Il periodo di guerra fu per me un'autentica scuola di vita. Divenni fatalista mentre da partigiano avevo l'interrogamento di camminare. Pensavo per me, più che morire non muori. Erano già morti tanti dei miei più cari compagni. Il fatto più tragico mi toccò nella guerra. Vedere un uomo fatto ormai alla morte senza poterci fare nulla. Quante volte mi viene in mente quel povero rosso e tutti gli altri, tanto da avere un rimorso di non essere stato io al loro posto. Usando la massima di Voltaire, non tutti i mali vengono per nuocere, la guerra mi ha trasformato in un deciso antinazionalista e di conseguenza anche antimilitarista. Essa mi ha convinto che i problemi sono anzitutto di natura economica. Purtroppo essa mi fa credere come se fosse combattuta per ragioni di ideologia, alle quali l'uomo è sempre propenso a credere ingenuamente, anche per ragioni di educazione in partita, lasciandosi facilmente manipolare, particolarmente da giovane come esperto, da una più scarpa e scelta di ignoranza. Dovrebbe prevalere l'unica alternativa, la trattativa, in modo da far prevedere il senso di giustizia, lasciando a parte gli egoismi, avendo tutti gli uomini indistintamente il famoso desiderio e il naturale diritto di vivere una vita decente. Questa richiesta realizzata dalle generazioni future non dovrebbe apparire troppo utopica. Per ora la vita sembra basarsi su un principio comprendere. Ed è il ricco prevalere e per i romini è più protetto dalla legge, anzi è lui in generale riesce a imporre al meno niente. Il concetto di vita e morte viene purtroppo alterato in guerra, per colpa della cosiddetta cultura militare di tanto degradato e politico, quando al soldato viene imposto di uccidere colui che viene aggredito e essere tenuto. Ma mi chiedo continuamente, come si può uccidere una persona che non si conosce mai, mai incontrata, che in tempi normali potrebbe essere il miglior amico? Volevo concludere questo mio intervento con tre elementi di riflessione. Il primo riguarda l'aspetto delle cosiddette memorie divise di cui abbiamo parlato, e ho trovato calzante, ci riconosco, una definizione di uno storico Recuperati che dice: il problema non è tanto quello delle memorie divise, con cui è inevitabile e salutare convivere, quanto quello se da queste nasce una storia emotiva, acritica, senza regole, passione più che ragione, che riporta lontano dalla storia degli storici, che la sfida e la cancella, azzerando nel segno di istruttivo. Certamente il problema, diciamo, si amplifica, per così dire, se a essere diviso non sono solo le memorie, ma anche le storie. È una questione con cui bisogna saperci fare i conti, non è detto che la storia debba essere condivisa. Io ho davanti agli occhi uno splendido libro di storia scritto da un insegnante palestinese e un insegnante israeliano che ha provato a mettere insieme la storia, facendolo manuale. È venuto fuori un libro molto interessante da vedere. Cioè ci sono due, si apre, e le due pagine che si hanno davanti sono sulla sinistra la storia degli israeliani così come la vedono gli israeliani, sulla destra la storia dei palestinesi così come la vedono i palestinesi, con una cronologia che spesso non combina, e in mezzo uno spazio vuoto con tante righe a disposizione degli studenti per fare le loro annotazioni. Se vedete davanti questa immagine, forse riusciamo anche a cogliere il significato di questa operazione, perché è fondamentale, soprattutto nelle zone di conflitto, legittimare la storia dell'altro, cioè dargli uno spazio nello stesso luogo. Cioè questo è il territorio dove noi ci confrontiamo. Io accetto la tua storia, e accettare la propria storia, la storia dell'altro, è già un passo importantissimo in una zona come quella. Se noi poi andiamo a vedere quali sono le altre zone di confine, altre zone dove si incontrano e si possono scontrare le storie, capiamo che ci sono tanti modi per affrontare questa differenza. C'è chi, come noi, oggi stiamo facendo, c'è un progetto come sapete, di libri di storia condivisa che è già quasi ultimato. Questo è un grande passo in avanti, non è il punto alla storia condivisa, sicuramente, ma un momento di riflessione collettiva, ci si confronta, abbiamo capito che forse possiamo costruire una narrazione comune. Questo per noi è un grandissimo risultato, anche a dimostrazione che così come le memorie sono divise, però non devono essere impermeabili alla riconciliazione. In altri luoghi è importante che le storie rimangano divise. Rimangano divise. Perché? Perché probabilmente non è possibile, se non attraverso forzature, arrivare ad una narrazione comune. E bisogna saperlo accettare. E anche se le storie, abbiamo a che fare con storie divise, è importante, è una situazione che può essere accettabile, se il conflitto, e qui cito un altro storico, delle interpretazioni tiene conto dei limiti della rappresentazione, non diventa indifferenza verso l'etica della verità, mancanza di rispetto delle regole del gioco, sostituzione dell'esercizio conoscitivo con ambigue avventure estetiche, di una fedeltà stretta alla propria memoria non criticata, confusione fra ipotesi suggestiva e dimostrazione razionale e documentale. Cioè, che la storia la facciano gli storici sostanzialmente, ma che possibilmente, se deve essere condivisa, non deve essere un pasticcio, cioè dove si mette insieme per forza ciò che è comune e si lascia ciò che è diviso. Questo non è fare storia, così come non è fare memoria. In conclusione vorrei lasciare la lettura di un ultimo estratto di un'altra testimonianza. In questo caso è la testimonianza di un internato militare italiano, un diario di prigionia. Questo signore vive ancora oggi, e abbiamo presentato da molto tempo fa il suo diario di prigionia di questo internato. Gli internati militari italiani, forse come alcuni sanno, furono quei militari che furono arrestati immediatamente dopo dell'8 settembre e trasferiti come operai a lavoro forzato nelle industrie, nei campi in Germania. Furono internati in campi di lavoro, molti di questi morirono, altri riuscirono a tornare, ma si portarono dietro passati una memoria molto difficile. Io chiudo ricordando, siccome ho seguito un po', ho potuto conoscere da vicino il Orazio Leonardi, l'autore di questo diario, posso dire che la scrittura di questo diario, la sua memoria, è stata da un certo punto di vista un percorso molto sofferto e dall'altra parte una sorta di liberazione. Liberarsi da quei ricordi che non riuscivano a essere espressi. Grazie per l'attenzione e lascio la parola. Bella voce. Anticipi facendo gli auguri a Orazio Leonardi, che è quello di cui diceva, perché sta in ospedale e ha il cuore a fatica. Vi facciamo gli auguri. Da San Postel 1943, anch'io detto no, diario della prigionia scritto dopo l'internamento di Orazio Leonardi, ex Pini di Bolzano. Partenza per il lavoro pronto. 2 novembre 1943. È ancora buio quando ci inquadrano. Una barca in movimento penetra gli indumenti insufficienti per questa latitudine. Il camminare lento della colonna viene sfornato da lunghe spartoni da parte della scorta. Chi rimane indietro viene sospinto con il calcio del fucile. Non sentiamo nessuna pietà per questi soldati, neanche se rendono conto della nostra debolezza e della farmacità di eleganza. Finalmente, dopo aver ricorso in senso inverso il tragitto di quando siamo arrivati, raggiungiamo la stazione di Brenner. Sono certissimo. Abbiamo camminato per oltre 9 chilometri senza mai fermarci, con le continue aerei della scorta tedesca. Ci cambiano sulla loro merce e vengono chiusi e spostati su binari morti. Rimaniamo per ore al chiuso e al freddo. Finalmente i vagoni vengono arrangiati. Il treno si avvia, ma poco dopo il viaggio si interrompe. Sganciano i vagoni e rimaniamo fermi ancora per ore, finché finalmente si riparte. La situazione si fa critica. Il freddo, la fame, l'immobilità generano malumori e imprecazioni. Sono trascorse 15 ore da quando ci hanno chiuso di dentro. Sono circa le 23 quando il treno si arresta. Dal buio profondo in cui da dove siamo immersi, all'apertura del portone, siamo illuminati dai riflettori che illuminano lo scalo ferroviario dove ci attendono due cani. Il nostro è di tutto giallo tra scritte rosse. Ci fanno salire scortati da due soldati armati. Cerchiamo per lo fatto di individuare dove siamo. Attraversiamo i lati ferroviari, passiamo accanto ad altri edifici, cisterne. Intravediamo nell'oscurità altri cimiteri fumanti, attraversiamo ponti metallici, osteggiamo binari ferroviari con convogli di alcuni cisterna. Finalmente il campo si ferma davanti alle costruzioni di condotti con strani marchi metallici e diverse quadrature da cui fuoriesce il rumore di vapore. Guardando il cancello dell'elettricità, ci troviamo in utilizzare il nuovo corso metallici con una baracca illuminata al giorno. Nuova, dal caratteristico del legno. Il locale è suddiviso in tre sezioni. Entrando, troviamo tavoli di paglie e allineati sulla mensola sono degli angoli pieni di posate. Ai lati vi sono due settori con delle castello, forniti di pannellici e coperti. Vi sono due sedozioni all'interno dei quali vi sono dei rioni per bisogni fisiologici. Siamo messi attrati. Dopo tanto sudore, questa situazione ci viene di speranza e una bruciante allegria serpeggia nel corpo. Le sorprese non sono finite e entrano due civili con un capo di un padre. Ci distribuiscono una tuta di patate, carote e pasta. Squisitezze che avevo sognato come cose irraggiungibili. Per prima di loro mi viene a sognare, per non lasciare nemmeno una goccia di cibo. Entrano altri civili, dallo stesso dirigente. Uno di essi, un cattivo italiano, ci informa che ci troviamo a un punto, in una raffineria di crescente. Il loro compito è di selezionarci in base alle nostre capacità lavorative. Vedendoci così debilitati, ci lasceranno 4 giorni di corso. Dopo mesi di lavoraggio, stendersi sulla parte è il massimo. Il caldo comincia a riscaldarci le ossa. Sono mesi che soffriamo il freddo. La barca è riscaldata dal momento in cui passa il vapore e si scarica in 3 minuti posti all'esterno della barca. Abbiamo acqua corrente a volontà. È circa 1 di notte quando il silenzio riempie lo spazio vuoto, illuminato solo da piccole lampade. Passato il momento di euforia, mi ritrovo triste e angosciato. Cosa sarà successo ai miei genitori? Cosa fanno? Cosa pensano? Quanta sofferenza stanno provando nella mia prigionia? Vedo, come fossero presenti, gli occhi terrorizzati della mia mamma quando ci siamo abbracciati. Piano, invoco l'aiuto del cielo. Il mattino seguente, svegliati da nulla, ci accorgiamo di essere praticamente prigionieri di una barca. Le finestre con entri imperiali sono chiuse dall'esterno con pannelli di legno, così pure la porta d'ingresso. Come lasciando un mondo organico che è molto tutto realizzato, accompagnato da un soldato con mano e un braccio, ci ordina di uscire per rimarcarmi il bello. È anche un'occasione per vedere dove ci troviamo. Descrivere lo sgomento che provo alla vista delle costruzioni sventrate, gru accrociate, autocarri ribaltati accrociati che si trovano al di là di un canale, non è possibile. Lettera dalla prigionia di Orazio Denari, 21 maggio 1944. Carissimi, a pochi giorni di distanza ci hanno dato la possibilità di scrivervi. Sia ringraziato il Dio, perché questa è l'unica consolazione che ci dà, l'unico legame con la nostra casa lontana. Spero che voi stiate tutti bene, così pure gli zii e i nonni che le ricordo sempre. In certi momenti, migliaia di ricordi mi assalgono, piccoli particolari della vita passata, che allora mi sembravano insignificanti, ora acquistano un valore grandissimo. Ricordi a cui mi aggrappo con tutta la forza per non lasciare stare nulla, come purtroppo avviene. Ma pazienza, speriamo un buon Dio che ci faccia presto ritornare, così tutto questo sarà molto subito. Sono preoccupato perché non ricevo vostre notizie dal 18 aprile, le cartoline in cui mi avete inserito il 13 marzo. Speriamo che riceva il peso. Informatevi presso la Croce Rossa per parti e posta. Scrivete a questo indirizzo: Giovanni Davide Lavona, Trento. Perché il loro figlio Giuseppe è assieme a me in Praga e ci teniamo con la compagnia. Chiedete le informazioni che vi saranno utili. Nella speranza di ricevere vostre notizie nuove, vi bacio tutti. Credete. Non faccio che pensare notte e giorno a quel giorno che ritornerò. Orazio. Allora, anch'io poi questo è il tema, rifletterò appunto sul rapporto tra storia e memoria. Dunque, da un paio di anni mi sto occupando in modo particolare della campagna di Russia, Seconda Guerra Mondiale, e quindi cercherò di raccontarvi qualcosa delle mie ricerche e qualcosa che ha a che fare appunto con questi, con questo tema, con i ricordi e che cosa significa anche per uno storico occuparsi in modo particolare di questo, lavorare appunto con la memoria, lavorare con i testi memorialistici o diaristici. Ecco, in particolare io mi occupo non tanto della memoria orale quanto invece di quella scritta. Insomma, io mi occupo di testi, leggo e cerco di analizzare, di far storia appunto con questi documenti molto delicati, a volte molto fragili, sempre molto complessi, da non prendere alla leggera, ma da analizzare costruendoci intorno sempre contesti molto, molto solidi. Ecco, Seconda Guerra Mondiale, quindi campagna di Russia. La memorialistica italiana sulla campagna di Russia è, come forse voi sapete, enorme. È cominciata subito all'indomani di quella sventurata ritirata, quindi a cominciare dal 43, e poi si è sviluppata via via e continua tuttora. Ci sono stati libri che hanno fatto in qualche modo, che hanno avuto da modelli. Uno dei primi libri di memorie usciti in parte ancora nel 43, poi riscritto nel 45, è quello di Don Gnocchi, Cristo con gli alpini, che è un vero e proprio modello di scrittura memorialistica, copiato e ricopiato da molti altri. Naturalmente il più noto è quello uscito nel 63 di Bedeschi, anche questo letto, riletto, ricopiato, eccetera. Si tratta questa di una memorialistica molto parziale, molto schierata, molto lacunosa. È in qualche modo una memorialistica che viene scritta per in qualche modo autoassolversi, a parte pochi casi, vabbè, insomma, Rigoni Stern e pochi altri, credo che possiamo, come dire, con le dita di una mano contare i libri che non rientrano in questa categoria di memorie che si autoassolvono. Si autoassolvono prima di tutto raccontando solo una parte della storia, ovvero solo un ritorno. Quasi tutte queste storie, queste vicende di esperienza, di guerra in Russia raccontano quella durissima marcia del gennaio del 43, dove appunto muoiono migliaia di soldati, si congelano, vengono presi prigionieri, e quindi è una lotta contro il tempo, contro il clima, contro le condizioni, la situazione, e naturalmente contro l'esercito sovietico, contro i partigiani sovietici. Ecco, la storia, meglio, via, la memoria È sempre una memoria quindi eroica, sempre una memoria di vittime. E non, l'autorappresentazione di questi soldati non è mai appunto una rappresentazione di aggressori che ci facevano i russi. Saranno arrivati in qualche modo, ma è sempre una rappresentazione di sé, quali vittime. Vittime di tante condizioni, vittime alla fine anche dei tedeschi, vittime dei fascisti e delle camicie nere, vittime del fascismo, ma in quanto tali, in quanto uomini, in quanto singoli, vittime. E quindi in qualche modo questa memoria riesce a fare i conti con un'esperienza che probabilmente era stata tragica e quindi accompagna poi in modo, come dire, depurato così il ricominciamento di una vita. Ecco, come si fa a fare storia quindi con memorie di questo genere? Eh beh, si può fare storia, naturalmente non è la storia degli eventi, non è la storia della guerra, non è la storia della campagna di Russia, è la storia di come si vive un'esperienza e di come e del contesto entro cui si scrive quell'esperienza. Ed è interessante insomma notare come via via che vengono scritte queste cose si reagisce con la situazione politica entro cui ci si trova a scrivere. Un conto è scrivere nel dopoguerra negli anni 40, un conto è scrivere poi invece negli anni 60 o negli anni 70. E le memorie degli anni 40 che culminano per numero nel 48, non è un caso, sono tutte memorie fortemente anticomuniste e in qualche modo possono, come dire, legittimare anche quel tipo di guerra, perché comunque siamo all'interno di una guerra di altro genere, siamo all'interno di una guerra fredda. E quindi dopo tutto quella campagna di Russia, così scrive Dognoni, non era poi così sbagliata, si trattava comunque di andare a combattere con un nemico che era ateo, che era bolscevico, che era il male del mondo e così. E successivamente negli anni della distensione, e siamo appunto gli anni 60, viene a cadere questo motivo dell'anticomunismo e invece, come dire, vengono enfatizzati altri aspetti, prima di tutto quello della bontà del soldato italiano, della valentia, della capacità di sopportazione del soldato italiano e così via. Questo aspetto, per esempio, della bontà sarà sempre più, come dire, portato a galla, sempre più enfatizzato. È il soldato che soccorre la popolazione russa, è quello che ha dei rapporti amichevoli e cordiali, quello che sa parlare, che sa dialogare, che sa essere amico, pur in una situazione così difficile. Ecco, questa è la memoria che cresce via via negli anni 70, negli anni 80, anche fino, dico, appunto, in questi anni 2000, per merito, diciamo così, di alcuni, lasciatemi passare questo termine, imprenditori della memoria, no? Cioè personaggi singoli, oppure case editrici, oppure organizzazioni che organizzano la memoria, trovano dei canali e la raccolgono, la pubblicano, eccetera. Sicuramente uno dei più grandi e dei più forti e dei più efficaci, appunto, imprenditori della memoria è l'Associazione Nazionale Alpini. Ancora a partire dagli anni 70 raccoglie le memorie dei propri soci, le pubblica, le sponsorizza, le porta in giro, insomma le impone all'opinione pubblica. E un'altra è la casa editrice Musi, che si è fatta, insomma, la casa, come dire, specializzata in questo tipo di memorie, ma anche qui le recupera, le mette insieme per tutti gli anni 70 e 80, in modo particolare attraverso la mediazione di Bedeschi, di Giulio Bedeschi, che si è fatto carico di creare dei legami tra i reduci e quindi di raccogliere anche frammenti di quella memoria, costruendo i suoi famosi libri, innanzitutto Nikolajevka, c'ero anch'io. Ecco, che cosa raccontano? L'abbiamo detto. Che cosa hanno a che fare con la storia effettivamente avvenuta? Poco, direi poco. Molto di più ci raccontano altri documenti, le lettere per esempio, le lettere dei soldati che scrivono alle famiglie dal fronte, i pochi diari che abbiamo, che siamo riusciti a recuperare. Ecco, quella documentazione, pur essendo appunto una documentazione soggettiva, da prendere con le pinze, da, come dire, da analizzare con tutti i criteri storiografici che mettiamo in atto di solito, anche per altri documenti, beh, ci raccontano una storia molto diversa da quella raccontata dalle memorie. Intanto ci raccontano le lettere, ma questo era già stato messo in luce da Nuto Revelli nelle sue raccolte di lettere, insomma, come dire, la fascistizzazione abbastanza profonda dei soldati. E, insomma, le parole d'ordine di questa guerra così feroce, perché fu una guerra feroce. Ecco, per esempio, una delle cose che questi imprenditori delle memorie non mettono mai in luce o non raccontano mai è che quella guerra feroce causò 26 milioni di morti in Russia. Russia, 26 milioni di morti russi. Ora, possiamo, come dire, possiamo girarla come vogliamo, ma 26 milioni è qualcosa di spaventoso. Questi 26 milioni furono causati appunto dagli eserciti tedesco, italiano, rumeno e ungherese. Non c'è niente da fare. Quelli furono gli eserciti che invasero l'Unione Sovietica, che la bombardarono a tappeto, che condussero una guerra spietata. Possiamo dire che gli italiani ebbero, come dire, un confronto meno diretto con l'esercito sovietico. Certo, fu così. Oppure possiamo anche dire che gli italiani non erano non furono responsabili dei campi di concentramento dove i prigionieri russi morivano a milioni. Certo, non erano direttamente responsabili, perché una direttiva faceva sì che i prigionieri fatti dall'esercito italiano dovevano poi essere, come dire, consegnati ai tedeschi. Quindi forse nessun italiano si macchiò di quella, insomma, così di strage, e però certo che questa collaborazione con l'esercito tedesco fu estremamente grave. Ecco, ritorniamo alle lettere. Le lettere appunto rivelano come le parole d'ordine del fascismo erano ripetute, erano state interiorizzate dai soldati, e come insomma questa guerra veniva portata avanti o veniva in qualche modo fatta con qualche convinzione. Insomma, ripeto spesso che fanno una guerra giusta, come Dio, che Dio è dalla loro parte, che quelli vanno, come dire così, insomma, che è giusto che vengano uccise, che le loro, che i loro paesi, le loro città vengano rase al suolo. C'è spesso l'elogio del lanciafiamme, c'è spesso il pregiudizio anti-ebraico, d'altronde nel 38 erano state fatte le leggi razziali, quindi insomma, ecco, e poi anche questa così enfatizzata collaborazione, comprensione, dialogo con le popolazioni locali, beh, insomma, dai diari viene fuori un'altra visione. È vero che questi alpini o fanti spesso, come dire, hanno dei rapporti cordiali con la popolazione, e però è anche vero che insomma con le donne sono piuttosto diretti, sbrigativi, insomma, forse non si può parlare di stupro, però siamo lì. Questo dai diari. Ecco, insomma, su un caso specifico come questo, il rapporto tra storia e memoria è qualcosa di molto, come dire, vivido. Si vede come la memoria sia una costruzione che a un certo punto non ha più niente a che fare con la storia, ha molto a che fare con la letteratura, se vogliamo, ha molto a che fare con la giustificazione personale, ha molto a che fare appunto con il clima politico, ha molto a che fare con una costruzione di un'associazione che ha bisogno di legittimarsi nel 2000, però con la storia, con i fatti concreti, ha poco a che fare. La storia è stata un'altra cosa. È la storia di una sventurata spedizione avvenuta in due momenti diversi, nel 41 e nel 42, 230.000 uomini alla fine, con 80.000 morti, con una, come dire, conduzione della guerra assolutamente disastrosa, e ai comandi poi dell'esercito tedesco. Ecco, tutte queste cose non le ritroviamo insomma nella memorialistica. La memorialistica se n'è andata per conto suo a raccontare altre cose. Grazie. Thank you. russo a divenire 135 per mettersi nel meglio e si tenere modeste. Differenza abissale con l'epoca attuale. Ora le vacanze devono essere registrate in viso. Il tempo è di nuovo Bolzano, dove ho fatto la scuola elementare a Cagliotti questa settimana. Eravamo prossimi alla guerra, ma noi adolescenti non ne sapevamo nulla. I primi segnali che non tutto era così serio sono stati i vagoni con i prigionieri. Ricordo quei terreni, i vagoni ferroviari fermi allo scalo dei piani di Bolzano. Dalle finestrine di ferro uscivano lamenti, richieste di cibo, o cadevano biglietti svolazzanti con i nomi e gli indizi dei loro familiari. E quando potevamo noi ragazzi andavamo a raccogliere e scrivevamo alle famiglie che i loro cari erano vivi ed erano passati alla nostra città. Potrebbe sembrare poco, ma spesso le famiglie non sapevano nulla dei prigionieri e noi per quanto possa sembrare incredibile, nessuno di noi sapeva alla fine l'ordine che ne prendeva. Non dimenticherò mai quello che si trovava nella mia vita. La guerra proseguiva, poco da mangiare e il minimo da vestire. Ricordo che Sandra di Cotta la zeppa, come corte. Tanto che io e la mia amica abbiamo diventato il motivo che siamo usciti di lei. Ricordo il periodo degli amori, perché no? Forse gratificante per la gioventù. Non nascondo che il primo amore è stato un ufficiale dei baroni di Papa, un momento di pace, mi ripeto. Sovente, quando lei tornava sopra la mia casa, spericolatamente per dimostrare il suo forte amore, a me piaceva, ma altrettanto non piaceva. Posero fine ai muri sopra casa e alla simpatia che trovavano per lui. Un'altra cosa che facevamo era andare alla stazione ferroviaria quando si sapeva del passaggio di treni con ex prigionieri o feriti che arrivavano dal fronte. Se per i prigionieri che venivano deportati, Bolzano era l'ultima città che i convogli attraversavano prima di uscire. Per i feriti e gli ex prigionieri di guerra, Bolzano era la prima città italiana e andare alla stazione era un modo per conoscere. Era un'attività che faceva mia mamma. In una di queste occasioni conosco un vagone di nostro conoscente, un ufficiale di cavalleria conosciuto in vacanza nel Trentino prima della guerra. Mamma lo finì sul treno, ferito in modo gravissimo alle gambe. Dopo molto tempo, questa è stata la guerra, duro come mai, pieno di tragico significato. Ricordare è bello, è come vivere. Per questo desidero e ho piacere a ricordare stragi. Ultima cosa. Tornando dalla passeggiata pochi giorni fa, una strada che si è spezzata in due, così mi sono trovata improvvisamente in una situazione precaria. Pioveva di oltre le scarpe, in mano, non si vede fino a casa. E così è la vita. A volte non si sa se ridere ironicamente. Bolzano, 29 novembre 1942. Siamo arrivati già nel quarto anno di guerra. Fino ad ora non ho mai creduto necessario notare che la fase è colare. La situazione sarà qualsiasi cosa tu sei, e direi più importante mettere nel mio ricordo determinati episodi. Già da tre sere sono iniziati in costumi e all'anno. La sera al 7 novembre, mamma, Ezia e io, siamo andati alla cima della G a vedere uomini sul fondo. Quando, al momento della proiezione del film a luce, suona l'allarme. È il primo vero allarme che si dà. È stato impressionante vedere l'uscita delle persone da locale. Io sono questa casa tra Laura e la mia cognata, mentre mamma e Ezia mi seguono. Arrivati a casa scendono subito nel rifugio, ma visto che alle 23 non è successo nulla, saliamo a casa. Non passano 5 minuti che mentre io bevo le patate per la colazione della mattina successiva, la mamma dice: sentite che rumore. Abbasso la radio che ho appena accesa e sento il rumore del motore d'aereo. Lasciamo tutto il ritardo circa 15 minuti con il rifugio. Appena uscito dal motore, passa sopra la nostra casa, così basso che pensiamo che fosse associato. Ritornare nel rifugio dopo quanto il suono ci sta portando. Ieri, domenica 8 novembre 42, alle 12:20 suona l'allarme. Stiamo facendo gli gnocchi, il pane e la torta di leggenzina. Per non lasciare il cibo sul fuoco, continuiamo a preparare tutto, ma con la finestra aperta, pronti a scappare. Ma nella notte ogni cuore c'è un piano. 4 all'ufficio, a mia casa, non riuscirei proprio a farlo. Certamente poi purtroppo non sarà come far ritornare. Ma abbiate pazienza. Vi trascrivo la vicenda. Quel sabato, 2 maggio 1945. È finita la guerra. La comunità non prevede, l'ho sentita da parte della quinta armata. Prima della notizia abbiamo messo un po' di cose per farmi imprestare la bici per vedere da voi. La bici l'avevo appena ottenuta nel caso di uno di quegli anni che sto fatto. Alle 2 avevo trovato il giorno che mi comunica che domani sarebbero partiti per Trento attraverso la montagna e che non volevamo fare noi e che la guerra sarebbe finita in luglio o agosto. Grazie.